Canto settimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto settimo. Papè Satan Aleppe, cominciò Pluto con la voce chioccia. E quel savio gentil che tutto seppe disse per confortarmi: non ti noccia la tua paura, che poder che gli abbia non ti torrà lo scender questa roccia. Poi si rivolse a quella enfiata labbia e disse: taci, maladetto lupo, consuma dentro te con la tua rabbia. Non è senza cagion andare al cupo. Vuolsi così nell'alto, ove Michele fe la vendetta del superbo strupo. Quali dal vento le gonfiate vele caggiono a volte, poiché l'alber fiacca, tal cadde a terra la fiera crudele. Così scendemmo nella quarta lacca, prendendo più della dolente ripa che il mal dell'universo tutto insacca. Ahi, giustizia di Dio! Tante chi stipa nuove travaglie e pene quanti viddi? E perché nostra colpa si ne scipa? Come fa l'onda là sovra Cariddi, che si frange con quella in cui si intoppa, così convien che qui la gente riddi. Qui vid'io gente più ch'altrove troppa, e d'una parte d'altra con grand'urli, voltando pesi per forza di poppa. Percotevansi incontro, e poscia pur lì si rivolgea a ciascun, voltando a retro, gridando: perché tieni e perché burli? Così tornavan per lo cerchio tetro, da ogni mano all'opposito punto, gridandosi anche loro ontoso metro. Poi si volgea ciascun, quando era giunto per il suo mezzo cerchio, all'altra giostra. Ed io, ch'avea lo cor quasi compunto, dissi: maestro mio, or mi dimostra che gente è questa, e se tutti fur cherci, questi chercuti alla sinistra nostra. Ed egli a me: tutti quanti fur guerci sì della mente in la vita primaia, che con misura nullo spendio ferci. Assai la voce lor chiaro l'abbaia, quando vengono i due punti del cerchio, ove colpa contraria li dispaia. Questi fur cherci che non han coperchio piloso al capo, e papi, e cardinali, in cui usò avarizia il suo soperchio. Ed io: maestro, tra questi cotali dovrei io ben riconoscere alcuni che furo immondi di cotesti mali. Ed egli a me: vano pensiero ad uni, la sconoscente vita che i fe sozzi ad ogni conoscenza or li fa bruni, in eterno verranno ali due cozzi, questi risurgeranno del sepulcro col pugno chiuso e questi coi crin mozzi. Mal dare e mal tener, lo mondo pulcro ha tolto loro e posti a questa zuffa, qual ella sia parole non c'ha pulcro. Or puoi, figliuol, veder la corta buffa de ben che son commessi alla fortuna, perché l'umana gente si rabbuffa, che tutto l'oro che è sotto la luna o che già fu di quest'anime stanche non potrebbe farne posar una. Maestro, disse lui, or mi di anche, questa fortuna di che tu mi tocche, che è che i ben del mondo ha sì tra branche? E quegli a me: o creature sciocche, quanta ignoranza è quella che v'offende, or vo che tutti mia sentenza imbocche. Colui lo cui saver tutto trascende fece di cieli e de lor chi conduce, sì ch'ogni parte ad ogni parte splende, distribuendo ugualmente la luce, similemente agli splendor mondani. Ordinò general, ministra e duce che permutasse a tempo di ben vani di gente in gente, e d'uno in altro sangue oltre la difensione de segni umani. Perché una gente impera e l'altra langue, seguendo lo giudizio di costei, che è occulto come in erba langue. Vostro saper non ha contrasto a lei, e la provvede, giudica e persegue il suo regno, come il loro gli altri dei. Le sue permutazioni non hanno triegue, necessità la fa esser veloce, si spesso vien chi vicenda consegue. Quest'è colei che è tanto posta in croce pur da color che dovrian dar lode, dandole biasmo a torto e mala voce. Ma ella s'è beata e ciò non ode. Con l'altre prime creature lieta volve sua spera e beata si gode. Or discendiamo mai a maggior pieta. Già ogni stella cade che saliva quando mi mossi e il troppo star si vieta. Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva sovra una fonte che bolle riversa per un fossato che da lei diriva. L'acqua era buia molto più che persa e noi in compagnia dell'onde bige entrammo giù per una via diversa. Una palude fa ch'a nome Stige questo tristo ruscel quando è disceso al pie delle maligne piagge grigie. Ed io, che di mirarmi stava inteso, vidi genti fangose in quel pantano, ignude tutte e con sembiante offeso. Questi si percotean non pur con mano, ma con la testa e col petto e co piedi, troncandosi codenti a brano. Lo buon maestro disse: «Figlio, or vedi l'anime di color cui vinse l'ira, ed anche vo che tu per certo credi che sotto l'acqua ha gente che sospira e fanno pullular quest'acqua al summo, come l'occhio ti dice u che s'aggira. Fitti nel limo dicon: tristi fummo nell'aere dolce che dal sol s'allegra, portando dentro accidioso fummo. Or ci attristiam nella belletta negra. Questo inno gorgoglia nella strozza, che dir non posson con parola integra. Così girammo della lorda pozza a grand'arco, tra la ripa secca e il mezzo, con gli occhi volti a chi del fango ingozza. Venimmo a piede una torre ad assezzo». Fine del canto 7.